questione là. Questo è l'ultimo boccone, Luca, poi riprendo, ripiglia tu. Via, mi dico non mendi, ripiglia tu. Via, per carità, per carità. Ah, a proposito, roba, io ho visto una macchina con una tua bianca. C'era un tipo, un signore grande. E non ce ne sono molte, ne ho visto anche io un'altra. Una c'era un amico mio, che non so se l'abbia venduta, che l'aveva presa insieme a me. E poi ce n'è un'altra, il Gran Mandolì. No, arriva a 4 novembre, è stata parcheggiata lì. Non so se è collegata, però non so di chi sia. E boh, e poi una Larghera. Ma è diesel, sì. Non te lo so dire se sia diesel quella con i cerchi in lega, questa è l'amico mio diesel. No, la tua. Si diesel. È bellina quella macchina. È bella quella macchina, molto spaziosa, no? Poi anche comoda. Salvo se è comoda. Tre punti c'è quella macchina, mi fa tre punti davanti. Ehi, a morte è venuta. No, sono andata a Roma, me ne sono scesa a Roma l'anno scorso. 7500 euro. Ma è nuovo, tutta bene. Tutta bene, cappa cappa, già andava in roba, già voi, va più che bene. Questa qua era un ex taxi, addirittura c'ho il cavo dell'antenna già collegato, devo solo pure, l'hanno già fatto il buco, devo solo, voglio mettere l'antenna, c'è già tutto predisposto perché c'è anche l'amplificatore, ci sono, la macchina è nata già con l'antenna del baracchino, c'è già tutto predisposto io. Ai ai ai, poi Dio, ma che bella futtia, sto la sua casa, boh. Già andava. Ma è troppo portare, tipo adesso, quando mai devi fare qualche, non so, devi andare a farti un giro, si dice da Alghero, devi andare, boh, dove devi andare, ti busco una magnetica, roba, almeno ascolti, boh, oppure se ti viene bene parli anche, vedi tu, ti busco una magnetica e ciccia, e gioco è fatto. Ma non te la chiamo la data, quello che mi ha dato l'Inter, non l'Inter, come si chiama, il Midland, mi ha dato anche l'antenna per macchina, ma manca la base, perché lui l'ha venduta la macchina, la base è rimasta attaccata, è un'antenna buona, della CCE, Midland, non mi ricordo come si chiama, l'ha vista anche Claudia, è nuova nuova. Ehi, che lo sta a regala, futtidilli. Me l'ha regalato, me l'ha parecchio, non so mica di lasciato, è nuovo fiammante, l'ho usato un paio di mesi, nuovo nuovo, è questo, il Midland. Sono sei contento. Ma lui, tutt'altro lui ha detto che non si mi fa di nuda, ogni tanto viene in officina qualche favore, glielo faccio, al conto lavoro. E vabbè, che andrà, non si fa regalato. Praticamente, ma ti chiamo fare pure io, glielo fa ovviamente. E vabbè, ma già va bene lo stesso. Gaffa, vabbè, ma non è tipo che pretende assolutamente, questo c'è una moto grossa, c'era ogni tanto veniva qualche fesseria per fare qualche lavoretto, ma io gliel'avrei fatto comunque, non siamo molto amici. Gaffa, gaffa, andate. Ma voi ci avete filo continuo sull'attrice elettrica? Sì, noi ma utilizziamo la filo continuo. È la migliore che c'è. Infatti noi abbiamo saldato a me il... Il coso del cavalletto, guardate in cavalletto l'avevo fatto quel ferro che c'è. A coso me l'avevo saldato a saldatrice, a coso, a le bacchette. E si è staccato subito. Sotto questo da Casula lì, dal produttore, c'è Gianluca. E me l'ha saldato a filo continuo, si è più staccato. La filo continuo è molto migliore della saldatrice elettrica, però quel tipo di cosa, visto che è un tubo, come saldarlo a pennello. Lo so, ma tiene di più roba comunque. Detto, vedrai lui non è riuscito, comunque c'è Casula. A Muglia, quello che fa la carrozzeria, si chiama Sergio Cappallone, pure il portiere, come si chiama, non Nando, come si chiama, Vaffanà, non mi viene il nome. Stefano. Stefano, Stefano. E anche Gianluca gioca. Non so se gioca ancora, comunque è un bravo giocatore. Stefano sta giocando il secondo portiere con l'Avantino. Ma la verità non lo so, comunque sto gioca a pallone. Ma anche lui come carrozziere, molta gente guarda lui, che lo vantano anche, che è bravo, però lo so cosa dici. Oh, già in gamba, già bravo ragazzi. Mario! Sono qua, là, mi sto fumando la sigaretta e sto assaggiando il caffè. Sì, così è. E vabbè, cosa stavo dicendo? Al cannello sarebbe stato l'ideale, come ci ha detto Quadrato, perché è molto più forte, sia come saldatura che come contenuto. Gaffa, che andava. Ma comunque non si è più staccato. Già va bene l'ultimo, non c'è problema. E vabbè. Però via. E così, bravo, ripete va. Mi lascia 4 numeri. Tutto a posto? C'è da portare, non ti sentivo. Non sei contento, meglio così. Ma no, questo è l'importante. Allora, ma che figlio di buona mamma sarà. Vabbè, non ci badiamo, va. Arrivo. No, è poca su cialle, bastardo. Arrivo. Aspetta un attimo, forse c'è qualcuno che non sta uscendo via radio. Oh, già ha parlato pure male. Ha parlato pure male. Però se gli aveva messo il culo, è poca su cialle. Se te la tessi di luci. Ah, puttidini, Mario, va. Non fatti sangue amaro, va. Lascialo perdere. È finito? Dammelo beh. Paoletto! Che cos'è Mario? È Mario, non si. La matta che te ne scenda. Che la matta si cosa di. Ma, lasciamo perdere, va. Non c'è problema. Cioè, non vedi che c'è la voce come Mario cristallina, là? Ha giù un preso. Mario per Porto a Torre c'è una scheggia. Senti Roberto. Adesso Paoletto, dove sei? Ma c'è tanto non ti sento quell'antenna antenna lì. Adesso è entrato in porto. Luca, è entrato in porto. Eia, io lo ascolto, basso, voglio l'ascolto. Paole! Adesso ho sentito. Adesso di dirgliela. Ai, allora niente. Ma non è finito ancora. Non ascolto più su QRM, boia. Ecco, sta entrando in porto il deposito. Tu Gabri Baracchio che ripigliamo un QRM. Stamattina non avevo nulla. Adesso esce, vedete? Attreccio. No, stamattina l'ho accompagnato, si va al porto. Tranquillamente, lo sentivo. Ma adesso non lo sento, ma dal QRM. Basso. Che prende Mario? Quando la gente si nasconde dietro un microfono mi si gira il sangue. Ma perché la portata te l'avevo messo? Ma almeno forte era Mario. No, era piccolino, però ti rendi tutti i colori, burate. Ma comunque, è sempre guardo da un microfono. Mi conosce pure. Mia dai, duro boffa, lascia un fa, non me la frutta a me. Io non lo sentivo, vedevo il segnale saliva, però non sentivo niente. Lascialo fare, facciamo Fabrizio. Ehi, poi puoi fare il picchio, Gianni. L'importante è che non lo faccia mai l'avanzi. A chi hai capito che gli rubo da invece? Luria, per carità di Dio, per carità. Comunque quello l'altro giorno non so ti sentito dalla portante, Luca. E chi? Dove c'era quel segnalone allucinante che copriva tutti, pare che era anche a Claudio. No. Basta. Basta poco, roba. Attacchi. Poi c'è una bella direttiva. La punta sopra. Schiaccia. No, io che ho fatto. Ma quello doveva essere secondo me qualche paese vicino tipo Ultimi, cosa vuol dire? Perché vi annientava tutti, tranne che a Claudio che sono vicino, li copriva di brutto, 9.30 arrivava. C'era anche qua 9.30, la luce, è qua a Sassari. Robe, dai, imparare ancora, dai giù da imparare, ma tu, era qua a Sassari, era portante, che portante? Ah, schiacciato il burro, non era una portante, no? Schiacciato diverse volte, però vi allentava tutti quanti, era forte giù da voi, era forte anche da me, o era dentro una macchina con un lineare grosso. Può essere pure che era qualche punto buono, magari lì a Ucino, in punta. Se sale lì, è una buona antenna, schiaccia e si è fritto. Sì, fritto, più che fritto. Ma con Ucino ci parlate voi, Luca, come arrivi tu a Ucino? Ma Ucino non c'è più nessuno adesso. Allora, c'era un altro tipo, che mi ascoltava bene in macchina, era lui. Ah, in Ucino, beh, c'è un 5, 4. Ma già, ci facciamo sentire ugualmente. Ma lui come ci arrivava? Uno di Ucino, perché ci arrivava bene? Più o meno così, 5, 6. Più o meno così. E lui, ah. Ma basta così, dai. Guarda, io mi ricordo quelli di Alghero arrivavano 9 qua, 8, 9 il segnale dell'Alghero. Ma anche quelli di Portotorre se vanno bene qua. Chi era in casa però e non in macchina. Io in macchina non riesco a... Purtroppo sono una zona non buona per Portotorre, ma per Alghero sì. Ma non assai, però. Ma per Portotorre sì, magari con l'antenna sul tetto, allora sì. Ah, se, si può discutere, però quando è in macchina... Io il telefono che vado a travagliare. Ciao Luca, ciao Mario e a tutti quelli che sono là sotto, a più tardi, a stanotte magari. Ciao Roberto, ciao, buon lavoro, tutto, ciao. Avanti Mario. Ciao Roberto, tra le prossime, là. Ce la riascoltiamo. Paolo, bloccato si è, Paolo! Buon sentito. Okay.